alla fine 15 appuntamenti, è stato un itinerario lunghissimo, tutto dedicato ai diritti del cittadino, e l'abbiamo fatto nel nome di Achille Artigò, perché il nostro maestro, il nostro sociologo bolognese, era anche lui sempre in prima fila, in particolare sul welfare, sui diritti dei cittadini in ambito sanitario, e anche lui, come Luigi, aveva una caratteristica: faceva le battaglie senza guardare molto in faccia a nessuno, non è che si preoccupava se qualche potente se ne aveva male, no, le faceva perché riteneva che aveva diritto di farlo, perché c'era qualcuno da difendere. È un modo che bisognerà riscoprire anche di partecipare alla vita. Io non aggiungo altro perché siamo qui per ascoltare Luigi Manconi, però è un piacere anche che Mauro Mori, che è un nostro testimone, che anche lui ha seguito attivamente come giornalista le battaglie politiche di Luigi, ci dicesse due parole. Grazie, no, sarò anche brevissimo perché poi siamo tutti curiosi e aspettiamo le parole del senatore Manconi. La storia di Manconi c'è bisogno che ve la faccia io, non ve la faccio, vi racconto solo un episodio personale, se mi perdonate. Io sono stato il portavoce del ministro Cancellieri quando era il ministero dell'interno e della giustizia, e quindi con Manconi ci siamo ritrovati, a parte la sua storia lunga e passata, ci siamo trovati lì su fondi opposti in qualche modo, cioè nel senso che diciamo i casi più eclatanti erano quelli Androvandi, tutti, il senatore Manconi ancora purtroppo sta battendosi per il riconoscimento dei diritti delle vittime di questi ragazzi, e quindi ci siamo trovati in teoria su sfondi opposti. Poi il ministro Cancellieri secondo me ha fatto molto per cercarle, però eravamo da una parte ministro e dall'altra il rappresentante di delle famiglie non vi racconto cioè quello che abbiamo fatto, ma quello che mi ha sempre colpito nel senatore Manconi è ovviamente stava dall'altra parte, ma il profondo senso delle istituzioni che ha sempre mostrato in tutti i suoi ruoli che ha esercitato. Non è una cosa normale, cioè nel senso che molto spesso chi fa le battaglie, soprattutto battaglie di minoranze, soprattutto battaglie, come diceva Mauro Moruzzi, senza guardare in faccia a nessuno, di solito si mette ai margini. E io ho sempre apprezzato, oltre che notato, questo profondo senso delle istituzioni del senatore Manconi, e volevo darvi anche questa piccolissima testimonianza. L'altra cosa, credo che, ed è il tema vero e secondo me più importante della nostra scuola, i diritti, oltre che i diritti delle minoranze sacrosanti, che giustamente vanno tutelati e per i quali bisogna combattere, ci sono dei grandi diritti di massa, quelli di cui abbiamo sempre parlato con noi, cioè lavoro, salute, casa, cioè, e credo che questo è quello che ci siamo sempre detti noi, e in questo magari mi permettevo di fare una sollecitazione al senatore Manconi, è quello che abbiamo detto noi, è che la sinistra ha un po' abbandonato questi temi, cioè i grandi temi che sono secondo me storicamente il senso della sinistra sono stati abbandonati, magari appunto si fanno le battaglie sacrosante per i diritti di minoranza, ma le battaglie per i diritti sociali, li abbiamo chiamati così, spesso sono un po' dimenticati, ma questo casomai avremmo possibilità di parlarne. Ringrazio ancora il senatore e mi siedo e sto ad ascoltare. Vuoi che lo tieni te? Sì. Buon pomeriggio, grazie di questo invito, grazie delle parole così lusinghiere, spero di meritarle, e grazie di essere qui così numerosi. Io ho una premessa da fare che sento doverosa, qualcuno l'ha già intuito, qualcuno lo sa, io sono cieco e dunque tutte le volte che parlo in pubblico quanto dico è sostanzialmente una improvvisazione, evidentemente c'è dietro tutto un lavoro di studio, di riflessione e di scrittura, ma mi è difficile seguire una trama precisa e puntuale, al punto che, come in questo caso, ho qui davanti a me dei fogli con le lettere a carattere cubitali che dovrebbero ricordarmi alcuni passaggi di ciò che intendo dire, e poi regolarmente non riesco né a identificare quelle lettere né a avere la prontezza di seguire il trascorrere dei fogli e quindi come dire la pista che mi sono dato. Quindi, come avevo anticipato agli organizzatori, il mio non sarà un intervento organico, ma questo comunque poi può essere integrato da vostre domande, aggiunte, correzioni e precisazioni ulteriori. Ecco, io comunque ho intanto dato un titolo a questo intervento perché ritengo che sia utile sempre avere una serie di parole che disegnino con la massima precisione possibile il contenuto essenziale di quanto si dirà. Allora, le parole che propongo a voi sono le seguenti: ordine, disordine e dare un posto al disordine. Perché ho messo insieme queste parole? Perché devo dire che la massima è più caotica, è più sregolata, è più minacciosa condizione di disordine immaginabile all'interno di un sistema politico è quello che si determina a seguito dell'assenza della tutela dei diritti delle persone. L'assenza o l'indebolimento o la rinuncia o il carattere controverso della tutela dei diritti fondamentali delle persone è la causa principale della produzione di disordine sociale, cioè di una situazione dove il conflitto non ha un ruolo positivo, cioè non determina alleanze, aggregazioni, percorsi comuni, passi avanti, conquiste, ma semplicemente produce una tensione costante, una lacerazione permanente del legame sociale. Faccio un solo esempio, perché, come vedrete nel corso di questo mio ragionamento, tenterò di costruire sempre riferimenti alla cronaca, addirittura la più recente. Si pensi allora a una situazione in cui, come oggi in tantissime città italiane e come oggi anche a Bologna, esiste una emergenza casa. Il fatto cioè che vi sia un numero elevato di individui e di famiglie prive di una abitazione stabile e legalmente acquisita determina una situazione di massimo disordine sociale. E la determina, pensate, per almeno tre ragioni. La prima ragione è che induce una serie di individui a vivere in una condizione di precarietà, instabilità, marginalità, tendenziale esclusione, perché essere privi di un'abitazione può portare a una vera e propria esclusione sociale. Non solo, la seconda conseguenza, il fatto che quella carenza di casa per una serie di individui e di famiglia ha un suo corrispettivo nel fatto che una serie di individui e di famiglie, diverse dalle prime, dispongono di una casa acquisita illegalmente. Altro fattore di disordine sociale. terzo fattore di disordine sociale, quello che potete leggere o vedere attraverso mille servizi televisivi sempre più frequenti negli ultimi anni, sul mercato delle abitazioni, sull'acquisizione legale di esse o sull'acquisizione illegale di esse, si sviluppano forme molto diffuse e particolarmente robuste di criminalità organizzata, che arrivano fino a manifestarsi come controllo criminale del territorio. Allora, perché ho voluto fare questo esempio? Innanzitutto perché è davvero di bruciante attualità. Voi pensate che a Bologna la situazione sia drammatica, non avete idea di cosa sia a Milano e a Roma. Quello che emerge, secondo il ragionamento che vi propongo, è che all'origine di questo c'è né più né meno che la mancata tutela di un diritto fondamentale del cittadino, il diritto all'abitazione. Allora, la questione dei diritti non è un ragionamento astratto che acquisisce, come dire, il senso di una sorta di retorica della contemporaneità. Oggi il tema dei diritti, il discorso pubblico sui diritti è molto diffuso. Vengono avanti sempre nuove istanze che chiedono tutela, si manifestano soggetti che domandano di essere riconosciuti e protetti come in passato non accadeva, e questo dà all'idea dei diritti una sorta di, come dire, movimento innovativo che attraversa le società democratiche avanzate proponendo nuove questioni. E tutto questo anche, come vedremo tra un attimo, ma poi se noi guardiamo con la massima attenzione possibile determinate situazioni, scopriamo che uno dei diritti fondamentali della persona, quella di disporre di un'abitazione, può produrre quella condizione di disordine sociale che è motivo di disgregazione vera e propria della società. Se tutto questo è vero, io faccio un passo indietro e contesto il titolo che è stato attribuito alla mia relazione di oggi, che recita: il diritto, la tutela del diritto del cittadino nell'attuale contesto politico istituzionale. Allora, la prima delle mie eccezioni riguarda esattamente quel tutela del diritto. Io arrivo a dire che non esiste un diritto del cittadino, ma che esiste un sistema molto articolato e molto differenziato e addirittura talvolta contraddittorio di diritti, tutto rigorosamente al plurale, diritti, che questi diritti, ecco il ragionamento che anticipavo, tendono ad ampliarsi e a differenziarsi. Qui, dicevi tu, una critica che si può fare alla sinistra, ed è una critica diffusissima, ma a mio avviso totalmente sbagliata, tanto per essere chiari, è che oggi sembra prevalere la tendenza a tutelare i diritti delle minoranze, i diritti, meglio, individuali rispetto ai grandi diritti sociali, quelli collettivi. Io, tanto per contestare immediatamente questa tesi, ho parlato del diritto alla casa, cioè di un diritto sociale primario che riguarda in Italia milioni di persone. Ma soprattutto, ecco il punto, Io contesto che i cosiddetti diritti individuali possano essere considerati interesse di elite, oppure, come è stato detto per decenni, interessi borghesi o piccolo borghesi, per loro stessa natura estranei a quello che era la cultura operaia e proletaria. Un secolo e mezzo, attenzione, di storia del movimento operaio, diciamo in Italia ma in tutto il mondo, ha alimentato questa tesi. Ma l'errore non era del movimento operaio, era di chi ne leggeva male le scelte e le opzioni. Il movimento operaio nasce come organizzazione delle grandi masse per conquistare livelli minimi di parità sociale, l'accesso alla scuola, l'accesso al lavoro, una paga regolare, la possibilità di una vita dignitosa. Dunque, il movimento operaio nasce proprio con questa missione, che era una missione ineludibile, non poteva fare altro, e grazie al cielo l'ha fatto, e fortunatamente l'ha fatto con tutti gli errori, persino errori capitali talvolta, persino sconfitte inenarrabili, ma ha, come dire, fatto sì che le grandi masse dei diseredati potessero accedere al sistema politico, alla possibilità di partecipare al suffragio universale, ad esempio. Dunque, inevitabilmente, tutta la storia del movimento operaio nei primi decenni è stata concentrata sulla conquista dei diritti sociali collettivi. Perché era l'urgenza, perché era l'impellente e ineludibile bisogno di acquisire un livello minimo di cittadinanza. Dove questa ragionevolissima e comunque obbligata strategia diventa meno efficace è quando conquistate le libertà fondamentali, il diritto al lavoro, il diritto al voto, il diritto all'istruzione, le leadership del movimento operaio, la cultura prevalente a sinistra, esistevano fortunatamente culture minoritarie, ma la cultura prevalente a sinistra ha continuato a ignorare quelli che sono i diritti individuali. Ora, questi diritti individuali non è che appartengano a una aristocrazia della società nazionale. Facciamo l'esempio più semplice. Se oggi in Italia non esistesse il diritto al divorzio o la possibilità di interruzione volontaria della gravidanza, questa carenza di tutela rispetto a queste esigenze non è che si riverberebbe solo ed esclusivamente sugli strati forti della società, sulla grande e media borghesia. Costituirebbe un motivo di difficoltà, di svantaggio, di sofferenza vero e proprio per tutti i cittadini, compresi quelli appartenenti alle classi popolari e anche quelli appartenenti agli strati sociali più deboli. Allora, questa è per me la più importante delle conquiste culturali, attenzione, culturali, che il pensiero progressista abbia fatto negli ultimi 50 anni. Il fatto cioè che sia giusto battersi allo stesso tempo per il pane e le rose. Cioè battersi allo stesso tempo per il lavoro e per il reddito, ma anche per quel piccolo, infinitesimale pezzetto di felicità che forse anche in questa terra può essere a disposizione di chi voglia battersi per ottenerlo. Mi sto spiegando? Cioè, il fatto che nel 2016, all'interno di una legislatura, quella attualmente in corso, che non è stata particolarmente smagliante, sia stato approvato la legge sulle unioni civili, non è che abbia impedito di ottenere altre conquiste importanti, importantissime sul piano delle condizioni socio-economico delle classi subalterne. Assolutamente no. Se non si sono ottenute quelle altre conquiste è semplicemente perché il centro-sinistra ha sbagliato politica. Ma ottenere la norma sulle unioni civili non solo non ha impedito, volendolo, di ottenere altre conquiste, ma comunque ha garantito all'intera società, e questo è un punto cruciale della mia idea di diritti, a coloro che di quella norma mai ne useranno, perché non sono omosessuali ad esempio, di vivere una società più libera. Allora, come vedete, la conquista di quello che è un classico diritto individuale, l'autodeterminazione rispetto alla propria sfera privata, la sfera delle opzioni sessuali, la sfera della coniugalità, la sfera delle relazioni di coppia, bene, questa norma è stata una norma che 100 anni fa avremmo interpretato come un obiettivo borghese, oggi dobbiamo leggere come una conquista di libertà. Ecco, questo per me è un punto cruciale. Se su questo non ci intendiamo, veramente rischiamo di essere su posizioni davvero contrapposte. Ma riprendiamo il discorso dove l'avevo lasciato per replicare a questo ragionamento sul rischio che si dimentichino le grandi rivendicazioni di ordine sociale che hanno a che fare con la sfera economica. Oggi, dicevo, non solo bisogna parlare di diritti, ma insorgono sempre nuovi diritti. Non 70 anni fa, all'alba della Repubblica, ma 30 anni fa, di privacy non parlava nessuno, diritto alla privacy sarebbe apparso come una formula totalmente sconosciuta. Oggi ciascuno di noi, e dico appunto anche qui ironicamente, anche l'operaio in cassa integrazione, ci tiene alla sua privacy. E come se ci tiene? Perché dalla tutela della sua privacy dipende, per esempio, il fatto che la sua subordinazione al mercato del lavoro sia meno lasciata al dominio dei gruppi dirigenti. Provate a pensarla in questi termini. Se io, operaio in cassa integrazione, non ho il diritto alla mia privacy, cioè alla tutela dei miei dati personali, delle mie opzioni, delle mie preferenze, sarò ancora più alla mercé di chi vuole disporre della mia forza lavoro. Bene, del diritto alla privacy veramente 30 anni fa nessuno sapeva in alcun modo cosa volesse dire, ma tanti sono. Se noi facciamo un passo ancora più indietro, agli anni 50, del diritto all'ambiente nessuno parlava, e agli inizi degli anni 60 che emergono i primi studi, che si aprono le prime discussioni pubbliche, ma fino allora non se ne parlava. Allora, c'è qualcuno che oggi può ritenere il diritto all'ambiente un bene superfluo, un bene per ricchi, una merce per persone che hanno visto soddisfatte le loro esigenze economiche primarie? Oppure il diritto all'ambiente sta dentro le esigenze primarie delle persone, ne costituisce la natura profonda e dunque non può essere distinto da altre esigenze? Ecco, allora, discutiamo così, i diritti, sempre al plurale, e poi se noi seguiamo questo percorso che vi suggerivo, a un certo punto vedremo che così come non esiste il diritto del cittadino, ma esistono i diritti, scopriremo, ed è una scoperta drammatica, che forse non esistono più i cittadini. Dico questo senza alcun intento provocatorio. Io in genere penso che quando uno si alza e dice voglio fare una provocazione sta per dire la cosa più banale del mondo, quindi la parola provocazione addirittura mi ripugna, non c'è nulla di provocazione in questa affermazione. Però se oggi noi indaghiamo sulla società italiana, noi dovremmo identificare almeno tre categorie che hanno sostituito quella che era la sola, dirò proprio la sola, categoria prima presente, quella del cittadino. Oggi in Italia noi abbiamo, dicevo, almeno tre categorie: i pre-cittadini, i post-cittadini, i quasi-cittadini. Faccio l'esempio che ho più a portata di mano perché da 2 mesi tutte le mie energie sono concentrate sul tentativo, oggi forse non più così disperato, di contribuire all'approvazione della legge sullo ius soli. La legge sullo ius soli è destinata a far entrare nel sistema della cittadinanza persone che non possiamo definire cittadini. Noi li chiamiamo i cittadini extracomunitari, ma questa formula è un ossimoro. E vi dico proprio l'esempio più brutale. Voi immaginate uno straniero regolarmente residente da 17 anni, 3 anni, 9 anni a Bologna, regolarmente titolare di un posto di lavoro, regolarmente residente, quindi presente nell'anagrafe cittadina, regolarmente pagante le tasse cittadine. Questa persona, definito cittadino extracomunitario, pagherà la tassa sulla nettezza urbana, ma non potrà contribuire in alcun modo alla elaborazione della politica sui rifiuti, perché non ha diritto al voto amministrativo. La sua, dunque, non è la condizione di un cittadino straniero, è la condizione di un quasi cittadino, di un pre-cittadino, scusate. Se lo diventerà, a quel punto sarà un cittadino. Per ora non è un cittadino, perché non gli è stata concessa la prerogativa fondamentale, quella che qualifica l'identità della cittadinanza, che secondo una parola d'ordine che ormai ha quasi 300 anni, diceva nessuna cittadinanza senza tassazione, cioè la tassa dà diritto alla cittadinanza. Ecco, allora qui abbiamo una categoria di pre-cittadini e sono coloro che attraverso un percorso complesso, per questo riteniamo importante la legge sullo ius soli, perché può accelerare, rendere più agevole, meno difficoltoso, meno drammatico quell'accesso alla condizione di cittadinanza, che però resta comunque tutta parziale. Poi abbiamo, dicevo, i post cittadini. Li chiamo così perché hanno avuto accesso a tutte le prerogative essenziali del sistema della cittadinanza. Possono votare, sia il voto amministrativo, sia quello politico. Possono quindi decidere l'indirizzo che governa la loro città e il loro paese. Hanno diritto all'istruzione, hanno diritto, anche questo è molto importante, a il giusto processo, cioè un'amministrazione della giustizia uguale per tutti. Bene, questi cittadini oggi esprimono dei bisogni che chiedono di essere tutelati, che sono bisogni, come dire, successivi, ma che sono diventati in questi anni estremamente importanti. Mi riferisco, perché è uno di quelli che con più intensità viene vissuto dalla popolazione, quello che riguarda le cosiddette scelte di fine vita. L'insieme di quelle opzioni che riguardano gli istanti ultimi dell'esistenza dell'individuo. Poter decidere finché si è coscienti se si accetta l'accanimento terapeutico o lo si rifiuta, se, per dire, si vuole una cerimonia religiosa o non la si vuole, se si vuole la tumulazione o essere cremati, ma anche se si vuole una chemioterapia reiterata, se si vuole l'idratazione e la nutrizione artificiali. Come vedete, secondo voi c'è qualcuno tra le persone che conoscete nel vostro quartiere, nel posto di lavoro, che considera queste tematiche beni superflui, merci di lusso? Io penso che un numero crescente di persone le consideri bisogni primari. Capite? La distinzione classica nella teoria sociologica è quella tra beni primari e beni superflui. Un numero crescente di persone li considera beni primari. E sapete perché? Perché un numero crescente di persone ha avuto tra i propri amici, tra i propri familiari, tra i propri parenti, qualcuno che ha patito sofferenze indicibili e che non è stato in grado di esprimere come avrebbe voluto la propria volontà. Ora, saremmo degli idioti se mettessimo all'interno di una scala gerarchica un bisogno per confrontarlo con l'altro. È ovvio che se oggi sei disoccupato, senza alcuna forma di reddito, un lavoro e un reddito sono per te l'esigenza essenziale. Ma c'è qualcuno che dice: datemi un bisogno, datemi un lavoro e un reddito e poi fatemi morire come meglio credete? Esiste oggi nello sviluppo dell'intellettualità collettiva, del pensiero delle comunità attuali, del discorso pubblico, delle relazioni sociali, quelle che viviamo tutti i giorni, qualcuno che afferma questo? Io non credo che esista qualcuno che possa affermare questo. Capite? Non penso. Allora, se è vero che c'è un problema enorme di reddito di lavoro, c'è un problema enorme di riconoscimento del diritto all'autodeterminazione individuale, che vale sia per la persona da amare e con cui fare coppia, sia per decidere del proprio morire. Ecco, capite? Queste sono le grandi novità che però ci aiutano a capire anche le antiche vicende, peripezie, contraddizioni, fatiche degli antichi diritti. Si sommano gli uni con gli altri. Perché annegare l'autodeterminazione degli individui sulla propria scelta d'amore o su come andare verso la morte sono comunque sistemi di potere. Capite? Sono sistemi di potere, sono dispotismi, sono aggregati autoritari che ci negano la libera scelta. È questo. Allora, volevo fare un ulteriore passo avanti. Oggi ci sono anche altre novità. Per esempio, ci sono delle novità che possiamo chiamare di metodo. Le due questioni sulle quali mi sono soffermato in ultimo, quindi la libera scelta nel campo dell'attività sessuale e le questioni di fine vita, oggi, pensate, vengono giocate nella nostra società attraverso una metodologia che non è nata ieri, però è nata appena l'altro ieri, solo un po' prima. Ed è molto interessante da seguire perché ci parla di come è organizzata la società contemporanea. Tutte le vicende che hanno portato infine all'approvazione di quella legge sull'unione civile e che non hanno portato e non porterà in questa legislatura e non so nella prossima, arrivo quasi ad augurarmi che non arrivi nemmeno nella prossima perché il risultato potrebbe essere terribile sotto il profilo dei contenuti relativamente al fine vita, sono state giocate in una triangolazione singolare che vedeva il manifestarsi di movimenti intorno a tali questioni, una proiezione istituzionale, parlamentare e infine legislativa, o esile, contraddittoria, fallimentare, o comunque inadeguata alla domanda, e poi il ruolo della giurisprudenza. È molto interessante perché dimostra un'intelligenza dei movimenti collettivi che in passato non c'era, non si manifestava con tanto limpidezza. Oggi la giurisprudenza in Italia, così come aveva fatto nei decenni precedenti rispetto a molti conflitti ambientali, ha contribuito a uno sviluppo positivo, a una crescita, a una maturazione dei diritti proprio in questa singolare triangolazione sempre più spesso attuata tra l'attività del movimento, dei suoi leader, soprattutto dei suoi esperti. La legge 40 sulla fecondazione assistita, giudicata da tanti, in particolare dagli scienziati e dai giuristi, una legge pessima, è stata letteralmente smontata dall'iniziativa di un'associazione radicale che ha il nome di una persona che non c'è più, l'associazione Luca Coscioni, e dalla giurisprudenza, dai tribunali. Lo stesso è accaduto per molte questioni relative alle unioni civili, relative all'adozione da parte di coppie omosessuali. Bene, tutto questo è molto interessante perché fa vedere, ed è il punto a cui volevo arrivare, fa vedere che poi la società si adatta. Quando la classe politica si rivela sorda, non risponde, non ascolta addirittura, poi la società ha una sua flessibilità, una sua capacità di trovare soluzioni. Queste soluzioni, è ovvio, sono soluzioni parziali, provvisorie, che richiedono nuove leggi, Per capirci, la giurisprudenza finora ha riconosciuto nella vicenda di Eluan Englaro, nella vicenda di Pier Giorgio Welby, dei diritti irrinunciabili, ma abbiamo bisogno di una legge perché i singoli cittadini non siano costretti a fare un percorso individuale, faticoso, pesante, pesantissimo, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Dunque, le buone leggi sono necessarie, indispensabili, ma mi faceva piacere sottolineare come poi c'è una capacità di adattamento della società. E per questo, facendo un riferimento ulteriore alla questione dell'immigrazione, che volutamente ho tenuto da parte, perché già così tanto ne parlo che mi avete dato la possibilità di allontanarmene per un paio d'ore, è stato un sollievo, però voglio dire, avete mai pensato che tutta la discussione pubblica in corso da 2 anni, tutti i conflitti messi in scena drammaturgicamente da Maurizio Belpietro, tutti i titoloni dei giornali, le mobilitazioni conseguenti, le assai occasionali violenze si riferiscono, pensate un po', si riferiscono a circa 400-500 mila individui su 60 milioni di italiani. Tutta la tensione sociale, culturale, politica, tutta l'aggressività che si diffonde nelle periferie, che agita i discorsi pubblici, tutto questo riguarda 400-500 mila individui. Sono gli irregolari. Accanto a loro, non so se ci avete mai pensato, accanto a loro in Italia c'è un numero di stranieri regolari che è 11 volte più grande, 5 milioni 500 mila. Capite? Cioè, tutto ciò che noi chiamiamo immigrazione, xenofobia, razzismo, riguarda un 1/11 degli stranieri presenti in Italia. Perché 5 milioni e 500 mila stranieri residenti in Italia regolarmente, si può dire, esagero magari un po', non fanno problema. Cioè convivono con noi, nei posti di lavoro, negli uffici, i loro figli, nelle scuole insieme ai nostri figli. Ancora una volta, perché sottolineo questo dato? Perché la società poi si adatta, integra, accoglie, borbotta magari, se in quel condominio c'è un odore insopportabile per il modo di cucinare che hanno quelli lì, ma non si fanno le barricate su questo, mi sto spiegando? Ci sono difficoltà, ci sono fatiche, ci sono tensioni, io sono il primo a sottolinearle con forza, ci sono e come, ma non si fanno le barricate, non si incendiano gli appartamenti dei magrebini per questo motivo, perché cucinano, puzzano. Capite? Allora, noi così dobbiamo guardare le cose, guardarle nella capacità del sistema sociale, delle relazioni sociali, degli individui, delle aggregazioni, della vostra scuola, delle vostre parrocchie, delle vostre associazioni, dei vostri partiti, dei vostri corsi di formazione, poi di vivere nella società riconoscendo ciò che vi sembra degno che sia riconosciuto, e vi sembra degno che sia riconosciuto anche se non è un vostro interesse preciso, proprio privato, egoisticamente indispensabile al vostro benessere. Allora, e per concludere, la questione dei diritti in tutto il mondo, oggi si accompagna a una parola fondamentale, che è la parola dignità. Io vi voglio solo ricordare due testi. Come vedete, non ho fatto nessuna citazione colta, nessun riferimento accademico, però qui siamo all'origine della nostra identità di cittadini contemporanei. L'articolo 3 della nostra Costituzione, l'articolo 3, dice che tutti i cittadini sono uguali per pari dignità sociale. Pensate, questa parola, dignità sociale, non richiede di essere spiegata. Non si trova un solo passaggio nella nostra Costituzione e nemmeno nei lavori che l'hanno preparata, che sono milioni di pagine, in cui qualcuno pretende di spiegare cosa significhi dignità. Perché è una parola intuitiva, autodichiarantesi, è una parola in sé, è una parola che dice ciò che deve dire, non aggiunge nulla a ciò che sostanzia quelle lettere messe l'una accanto all'altra. E nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, l'articolo 1 è molto simile nella sua enunciazione. Dice che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Anche qui, pensate, sui diritti c'è un'immensa letteratura giuridica, sociologica, culturale, epistemologica, filosofica. Sulla parola dignità c'è solo la sua reiterazione, il richiamo ad essa parola, la sua proposizione nella nitore esaustivo della sua limpidezza, direi proprio così, nel nitore esaustivo della sua limpidezza. Dignità e dignità è qualcosa che non richiede di essere spiegato. Allora, e concludo davvero, noi sappiamo questo, che i diritti non si acquisiscono una volta per tutti. I diritti si possono perdere. La terza categoria che prima io ho evocato erano i quasi cittadini. Oggi in Italia cresce il numero dei quasi cittadini. Per questo li ho distinti dagli immigrati stranieri che diventeranno cittadini magari grazie a una legge sacrosanta, ma ci sono i quasi cittadini, i semi cittadini, la parola giusta è semi, che sono stati cittadini e non lo sono più. Questa condizione è una condizione che riguarda oggi milioni di italiani, non lo sono più. Sono i poveri, i poverissimi. Non lo sono più perché cittadino vuol dire esattamente questo: essere nella pienezza della titolarità di quei diritti che essi soli, danno a te persona la dignità che come persona hai, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal momento in cui nasci come essere umano libero in dignità e diritti. Ecco, la dignità è ciò che rende effettivi, reali, cioè pienamente godibili, quei diritti. Nel momento in cui la casa di cui non disponi più, il lavoro che hai perso, la necessità di andare alla mensa della Caritas ti toglie questi diritti che ritenevi essere tuoi proprio perché parte di una comunità, tu diventi un semi cittadino. E il semi cittadino lo si riconosce esattamente, non crediate alle favole sulla dignità dei poveri. La dignità dei poveri è la prova più eroica che i ricchi chiedono ai poveri. Chi è povero non può essere dignitoso. Il primo diritto che viene lesionato, che viene ferito, che viene mortificato è proprio quello alla propria dignità. Dunque, mi toccherebbe almeno una battuta sulla lezione che mi ha dato, ma io non intendevo assolutamente distinguere tra il pane e le rose. Per me sono tutto pane, e anch'io ti faccio un esempio. Cioè, è sacrosanto che la sinistra si sia battuta per le unioni civili, ed è sacrosanto che siamo andati in piazza 10 volte per le unioni civili, ma se non andiamo in piazza neanche una volta perché i giovani, non importa di quale sesso, possano sposarsi perché non hanno i soldi, cioè, certo. Se permetti, è un problema della sinistra, era questo che ti dicevo, non che io distingo tra il pane e le rose. Quindi su questo siamo d'accordo, scusate la precisazione, ma era doverosa. Direi che l'intervento è stato interessantissimo, secondo me comprensibilissimo, per cui possiamo solo aggiungere e chiedere al senatore di darci altre spiegazioni, altre opinioni su quello che volete. Grazie. La signora, prego. Io volevo chiedere al senatore se lui ha mai visitato un ospedale come Montecatone, dove la maggioranza degli ammalati non riescono più nemmeno a muovere le mani e sono in balia di chi ha possibilità, può avere la moglie vicino o un familiare o un ballante, ma gli altri di poter suonare il campanello studiando in un tubo. E io ho sentito tantissime volte gli os arrivare dopo tantissimo tempo e maltrattare le persone. E io a un certo punto ho visto che sono vissuta con mio marito 2 anni, mi sono offerta nel reparto dove era mio marito che mi chiamassero e andavo io a fare quello che dovevo fare gli altri. Ecco, allora sentire dire se tu ti vuoi lavare i denti come vuoi tu, alla mattina mentre su una padaglia dove era un ragazzo di 20 anni che non poteva rimuovere il dente, e se non te lo puoi prendere e pagare, tu rispetti che ti lavi i denti come voglio io. Allora io ho detto, guarda, te li vengo a lavare io tutte le mattine i denti, ma io vorrei che i denti venissero lavati da tutte quelle persone che sono su nella maniera che uno... È chiarissimo, allora, grazie, grazie. Prego, facciamo... O vuoi rispondere? Come volete voi, assolutamente come volete. Allora ce ne 3 in fila, partiamo Fulvio, poi 1, 2, 3 su questa direzione, fino a Galletti là in fondo. Pieri. Sono Fulvio De Nigris della Galleria. Qui è un altro dei testimoni della Galleria di Sveglia. Lo conosco. Sì, sì, ci siamo sentiti tante volte. No, le volevo chiedere, lei ha fatto già questo discorso delle priorità, no? Delle priorità, ha fatto l'esempio della disoccupazione e del fine vita. Ecco, io le faccio appunto questo esempio della priorità, perché La priorità è un compito della politica e dei politici. Allora, quando ero piccolo io, mio padre mi diceva mangi il latte perché sennò ci sono dei bambini nel piatto che non possono bere il latte. Pergolzoni dice se cade un albero in Amazzonia, questo albero riguarda anche me. Ma quanto è lungo questo albero dell'Amazzonia? No, dice lui per ridere. Allora, il tema è vero, c'è la libertà di scelta e il fine vita, ma c'è anche il diritto di cura. Molto spesso nella nostra legislazione in Italia questa contrapposizione fa sì che mentre tutti parlano del fine vita nessuno parla più del diritto di cura, quelle persone fragili, emergenti, come parlava la signora prima, cioè persone che, nelle quali quella fragilità fa mettere in dubbio la dignità della vita. Eppure le famiglie riconoscono quella dignità in quella condizione, che è una condizione estrema. Ecco, perché di questo non si parla mai? Perché non ci si impegna mai su questo? E perché un politico ne parla solo quando è coinvolto? Mentre invece dovrebbe farlo quando non è coinvolto. E quindi quando il suo dovere sarebbe quello anche di guardare queste condizioni. Perfetto, grazie. Chiarissima la domanda. Prego il signore dietro Fulvio. Stiamo sulle domande, così va benissimo, stiamo su questi tempi, così diamo tempo al senatore di rispondere. Prego. Non posso dire insieme i cittadini. Parli più forte. Se no dopo io lo riassumerò. Prego. Non posso dire insieme i cittadini, vista la definizione che ha dato il senatore, che direi che è correttissima. La domanda è, ma questi simili cittadini sono diventati così perché sono persone che non sono capaci, perché non hanno qualcuno che li rappresenta o perché forse è comodo che siano simili cittadini? Grazie, perfetto, grazie. Sì, mi chiamo Paolo Galletti, ho avuto la fortuna di condividere con Luigi Manconi vari anni di impegno comune nei Verdi. Il diritto all'ambiente di cui lui ha parlato, diciamo negli anni Ottanta c'era chi, faccio un nome a caso, Chico Testa, che allora era il vertice Lega Ambiente, poi è diventato un filo nucleare, e diceva appunto che l'ambiente era un lusso per chi era già sazio, per i ricchi, prima c'è il resto, poi viene l'ambiente. Abbiamo avuto l'enciclica recente, Laudato Si, che dice esattamente il contrario, che i poveri sono le prime vittime della questione ambientale, poi arriva anche agli altri chiaramente, però quelli che vivono le condizioni peggiori sono a subire le conseguenze di inquinamento. Noi viviamo in una città ad esempio che ha tante eccellenze, però sappiamo dai dati ufficiali che l'aria di questa città incide, ci sono più persone che muoiono prematuramente per la non qualità dell'aria di questa città, e però questo tema sembra che sia, come dire, escluso dall'interesse, no, dei dibattiti, delle cose. In realtà è un tema, perché non si vede, chiaramente non si vede. Però credo che sarebbe, chiedo a Manconi, sarebbe importante, perché non è acquisito questo diritto all'ambiente, cioè acquisito in teoria, nei discorsi della domenica, ma lunedì mattina ce ne dimentichiamo. Grazie Paolo. C'era prima un assoluto. Adesso non so, facciamo l'ordine così, 1, 2, 3 e 4, poi prego, una domanda. Sì. Come che stai con? La domanda però si è formata di due articoli della Costituzione, ci testerei la lancia in favore di quello che diceva Fulvio De Nigris, perché io credo che l'articolo 32, primo comma, voi sapete di cosa parlo, necessiti grande attenzione, che deve essere contemperata con il resto. Ma non è che lo dico con, diciamo, una pruderia, lo dico perché c'è bisogno veramente di dare strumenti di salute a chi non ha, chi è indigente, chi non ha nulla. Vado a un secondo argomento. Io ne discutevo con un amico, per non far nome, Augusto Barbera, gli dicevo guarda, il referendum è andato come è andato. Ma l'articolo 48, gli dicevo guarda, io l'articolo 48 sei andato oltre, perché in realtà l'articolo 48 c'era stato tolto il fatto che si votava alla Camera e al Senato e aveva tolto la parola al Senato. Io cosa voglio dire? L'articolo 48, vi leggo interamente il quarto comma, perché secondo me è un'aberrazione proprio nell'ottica di quello che ci diceva ora il senatore Manconi, perché qui c'è proprio una deprivazione di un diritto fondamentale, quello che dice il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indignità morale indicati dalla legge. Queste ultime parole, nei casi di dignità morale indicati dalla legge, è saltato, perché voi sapete si parlava appunto della prostituzione. Però voglio dire, l'argomento invece, e me ne trovo davanti perché io mi occupo poco, devo dire la verità, però cerco di stare attento ai diritti di chi meno può, in questo caso per esempio dei nomadi, trovo che nomadi per vicende risibili, condannati che so 30 anni fa, sono ancora interdetti per tutta la vita al diritto di voto. Io ho già provato di fare istanze in prefettura e al capo dello Stato e alla compagnia cantante tutta, dico senatore, qui occorre che questo quarto comma lo rivediamo nella legislazione completamente, perché se non siamo elettori tutti e abbiamo tolto a delle persone che hanno intelligenza e capacità questo diritto per troppo tempo, ed è una vergogna nazionale, io dico, gravissima vergogna nazionale. Sono in chiusura molto solidari con Fulvio De Ligris, perché l'argomento che lo impone è importantissimo. Noi dobbiamo essere capaci di vedere il lato A e il lato B della medaglia, i due lati entrambi. Vi ringrazio. Grazie, prego. Vieni qua. Lei ha parlato giustamente di una uguaglianza dei diritti, però mi chiedo, com'è possibile parlarne quando c'è una politica che agisce all'80% e legifera sull'emergenza? Qual è il diritto emergente allora? E la seconda domanda è questa: il nostro sistema diritto è basato sulla gerarchia delle fonti. Come possiamo dire che tutti i diritti allora sono uguali e hanno uguale valore quando le stesse norme assumono una diversa valutazione a seconda dell'organo che le valuta? È chiarissimo. C'era la signora dietro di lei. Prego. Io mi occupo da tanti anni di diritti dell'infanzia e so bene che spesso si incontra una contraddizione fra diritti che sono quelli degli adulti rispetto a quelli dei bambini. Ma vorrei andare un po' più in là e chiederle cosa ne pensa. Abbiamo vissuto i mesi delle vaccinazioni obbligatorie, no? Diritti delle famiglie, di scegliere per i figli, diritti collettivi. Io credo che uno dei temi che forse su cui dobbiamo un po' interrogarci anche è come stanno insieme dei diritti collettivi che limitano dei diritti individuali, e chi deve o chi può decidere rispetto a questi. Grazie. C'era il signore, poi io non ho visto altri. Dite se c'è qualcun altro. Sostanzialmente lei ha parlato di una, diciamo così, di una, di diritti riferiti a una comunità nazionale che fanno riferimento, diciamo, a una cittadinanza piena fatta di diritti civili, politici e sociali. Il venire meno dei diritti sociali condiziona tutta una serie di rapporti di uguaglianza e di ingresso in città. Io però su questa dimensione volevo porre una riflessione: come facciamo in un'epoca di globalizzazione, di rottura degli schemi nazionali e soprattutto economici, come facciamo noi a rispettare questi diritti, magari indossando, adesso senza far nome, un capo di abbigliamento di famose multinazionali che per diciamo sviare anche agli esigui oneri sociali che i paesi del terzo mondo cominciano a mettere per garantire pensioni e diritti sociali portano addirittura gli operai in acqua internazionale, li fanno lavorare in acqua internazionale e poi comodamente, senza nessun tipo di precetto, vendono in tutto l'Occidente industrializzato. Cioè questa dimensione secondo me è talmente drammatica che infige anche un pensiero locale, nazionale. Cioè la cittadinanza così come l'abbiamo conosciuta sta cominciando a essere smontata dalle proprie fondamenta. Grazie. Perfetto, grazie. Beh, intanto cominciamo a far rispondere al senatore, poi magari se vediamo l'ora, ma dopo parli. Io. Prego. Vabbè. Ci siamo? Sì, sì. dico subito che non so se risponderò a tutti i quesiti, e non semplicemente perché sono numerosi, anche perché sono particolarmente onerosi, cioè impegnativi. Una cosa dico subito, perché me l'ha consentito l'intervento che faceva riferimento alla questione dei vaccini. È vero, assolutamente vero, che esistono diritti che possono entrare in radicale antagonismo, e questa è, diciamo, la novità dell'epoca: si tratta di diritti ugualmente legittimi. Se noi avessimo di fronte un diritto legittimo e uno capriccioso, pretestuoso, privo di fondamento, tutto sarebbe risolto, perché a prevalere sarebbe il primo. Noi abbiamo invece di frequente tensione drammatica tra un diritto legittimo e un altro diritto legittimo, addirittura tra un diritto legittimo e riconosciuto e un altro diritto legittimo e riconosciuto. Negli Stati Uniti questa discussione ha iniziata 50 anni fa ed è passata sotto l'etichetta di scelte tragiche, cioè si confrontavano diritti ugualmente degni di essere tutelati e toccava però, e non poteva farsi diversamente, scegliere a un certo punto, perché la politica, quindi lo Stato nella sua forma di amministrazione dei conflitti, non sempre può comporre diritti ugualmente legittimi. Questo deve essere chiaro: non sempre può comporre, ci deve provare, sicuramente andrà incontro a veramente lacerazioni potenti, però c'è poco da fare, non siamo all'altezza delle sfide che noi stesso lanciamo, questo va detto, capite? E deve essere un ragionamento, come dire, drammaticamente consapevole. L'esempio fatto è pertinentissimo, non credo di averlo finora mai detto o mai scritto. Quella normativa lì a cui ha fatto riferimento la signora a me ha messo in una difficoltà veramente inquietante, e vi dico, tanto per dare senso alle parole che ho cercato tutte di pronunciare con vera sincerità, vi dico, senza averlo finora mai detto e scritto, che io quella legge non l'ho votata. Non l'ho votata, sapete perché? Per confusione. Non ero sufficientemente lucido, non ero sufficientemente maturo in quel momento per scegliere l'approvazione o il rifiuto di quella legge. Sentivo come profondamente sbagliato, questo l'ho detto, l'ho persino detto in aula, il carattere autoritativo, impositivo, dispotico di alcuni elementi, e dunque non li sostenevo, ma d'altra parte riconoscevo nella ratio di quella legge un elemento di ragionevolezza che mi induceva a considerarla con attenzione. Ma il modo in cui quella legge pretendeva di imporre un vincolo mi sembrava non poterlo condividere. L'ho risolta, qualcuno dirà, nel modo peggiore. No, nel modo più vero. Io in quel momento non mi sentivo di prendere una posizione netta. Detto questo, però è una cosa importantissima per tutto il discorso che ha fatto. Quella che ha detto la signora doveva essere detto in apertura dell'incontro di oggi, perché è una vera questione che, come dire, orienta tutta la discussione sui diritti e la rende così importante, nulla di facile, nulla di retorico. Dopodiché c'è una cosa che voglio dire al professor De Nigris, per certi versi anche al mio amico Paolo Galletti, perché c'è qualcosa che si incrocia nei loro interventi. Allora, io, come mi capita da 5 anni esattamente, essendo da 5 anni parlamentare, quando intervengo in pubblico parlo da militante politico che, grazie al cielo, c'ha anche un suo mestiere, quindi un suo lavoro di analisi e di elaborazione fatta. Quindi io ho descritto una situazione relativa ai diritti all'autodeterminazione, non ho descritto le questioni relative al diritto di cura, ma qui anche va capito, però non crediate che il fatto che si parli molto di eutanasia nei fatti poi significhi, da parte di chi ne parla, chi viene interpellato, chi dice la sua, che vi sia un impegno tot, quindi molto ampio, molto tenace, molto appassionato, molto costante, che non va invece nei confronti di altre problematiche fondamentali come quelle, ad esempio, delle persone in coma. Non è così, assolutamente non è così. Oggi, per capirci, la questione dell'eutanasia, di cui così tanto si parla, vi dico molto francamente, sono convinto che non avrà alcuna forma di traduzione legislativa per i prossimi 10 anni. Quindi il gran parlare che se ne fa semmai recupera una grande censura che intorno a questo tema c'è stato, ma non è che questo gran parlare si traduce poi in leggi, provvedimenti, spese, investimenti su questo tema che sacrifichino poi le spese, gli investimenti, i provvedimenti relativi ad altri aspetti della salute degli individui. Non è così. Cioè, quindi non diamo troppo peso a quella deformazione della discussione pubblica che registriamo attraverso i titoli dei giornali o dei notiziari televisivi, perché poi nel concreto della vita sociale, nella sviluppo delle relazioni quotidiane, quei temi vanno avanti o non vanno avanti e prescindono poi dalla discussione che si può fare in una trasmissione televisiva che risponde a criteri, pulsioni emotive, notizie d'attualità che sono estremamente volatili. Perché dico, anche nel discorso di Paolo Galletti si rischia che vi sia questa interpretazione, perché poi Paolo Galletti sa benissimo che, grazie e non poco anche al suo lavoro, la consapevolezza del carattere decisivo del diritto all'ambiente, cioè, per capirci, ha vinto Paolo Galletti, non ha vinto Chico Testa. Cioè, in questi 20 anni non ha vinto l'idea che il diritto all'ambiente sia roba da ricchi. Poi, ripeto, c'è uno scarto gigantesco, tra sensibilità collettiva e decisioni pubblico-politiche, ma questo vale per tutte, perché allora posso dire, e non sto contraddicendo ciò che ho appena detto, lo sto rafforzando, io ritengo che nella sensibilità collettiva vi sia un atteggiamento largamente positivo nei confronti dell'eutanasia a determinate tassative estreme condizioni. Ma se la stessa indagine la sviluppate all'interno della classe politica, vedrete che quel 50% favorevole all'eutanasia all'interno della classe politica diventa il 12%, e questo riguarda l'eutanasia o il diritto all'ambiente. Allora non lasciamoci deformare dalle rappresentazioni. Le rappresentazioni sono tali, cioè sono come dire, immagini che hanno il loro peso, ma che proiettano sullo schermo tratti deformati. Possono essere deformati in positivo e in negativo, ma sono comunque deformati. La sensibilità ambientalista la si rileva attraverso altri criteri. La sensibilità per le necessità delle cure alle persone, adesso uso questa formula perché conosco il professor De Nigris in ragione di questa motivazione, delle persone in coma, la sensibilità collettiva a mio avviso è elevatissima. E se anche Bruno Vespa invadesse tutti i giorni gli schermi televisivi, cosa che mi sembra improbabile, con la propaganda pro-eutanasica, non è che l'attenzione per le persone in coma verrebbe meno. Se i provvedimenti necessari e le decisioni di spesa conseguenti non si vedono, non è per come va il dibattito televisivo, è per una strutturale incapacità della classe politica di perseguire il bene collettivo, punto. Non ne parlo ulteriormente perché mi sembra di stare dentro un coro, quindi non è una novità se dico questo. Alcune cose ancora, la questione della cittadinanza, sì, perfetto, l'ultimo intervento, mi sembra che fosse l'ultimo, esattamente ciò che ci voleva, ma in termini generali, non solo per l'esempio che è stato fatto. Oggi c'è un vero e proprio sistema di cittadinanza europea che non funziona. Meno male che c'è, perché funziona per alcuni aspetti, per alcuni provvedimenti, per alcuni diritti, per alcune garanzie, ma è infinitamente lontano da quello che si sperava potesse valere. Ma è ovvio che non semplicemente, come si dice con una frase che è diventata uno slogan, non semplicemente nel mondo globalizzato, ma in Europa o si realizza una cittadinanza europea, oppure tutti i discorsi che abbiamo fatto sono giusti, con un'avvertenza, che sono destinati a peggiorare ulteriormente se in controtendenza non si sviluppa un ragionamento sulla cittadinanza europea. Ancora, io non ho mai visitato quell'ospedale di cui si parlava, di Montecatone. Ahimè, ho avuto la sfortuna di visitare negli ultimi 25 anni tutti gli ospedali, gli ospedali psichiatrici giudiziari che c'erano in Italia, e dunque, signora, davvero lo dico, spero che si intenda il tono con cui lo dico, davvero non ho bisogno d'altro per rendermi conto. Sì. Ci andrei se fossi in grado di risolvere qualcosa, signora. Le miserie le ho viste tutte, però volevo aggiungere una cosa, signora, non ho finito con lei. Non ho finito con lei, perché lei ha detto quasi inavvertitamente, ha fatto una considerazione per me decisiva. Io potrei cavarmela facilmente, io sto consumando gli ultimi mesi della mia esperienza parlamentare, quindi aprile prossimo non sarò più un senatore della Repubblica. Quindi potrei dire, vabbè, affari loro. Io non penso invece che sia così. Io ho seguito passo passo, ma davvero passo passo, signora, non hai idea di come ho seguito passo passo, la vicenda di un uomo, Franco Mastro Giovanni, che è stato tenuto legato a un letto di contenzione in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale civile di Vallo della Lucania per 87 ore, finché non è morto. Noi diciamo 87 ore, in realtà le ore sono 95, perché è morto dopo 87, medici e infermieri se ne sono accorti dopo 95. Allora, di questa agonia durata 87 ore, esiste il filmato che la telecamera di servizio ha ripreso ininterrottamente. Allora, noi possiamo dire qualunque cosa sull'infamia dei politici, sulle infamie delle strutture, ma poi dobbiamo chiederci com'è possibile che gli OS che lei ha nominato arrivino, non so cosa ha detto, mezz'ora dopo essere stati chiamati, ma dobbiamo chiederci perché dunque 17 tra medici e infermieri, no, 12 tra 17, perdono, 17 tra medici e infermieri, 17 abbiano lasciato un uomo legato 87 ore a un letto di contenzione. Vorrei che me lo dicesse lei, capito? No, signore, no, lasciamo rispondere. No, ma capisce, non so se mi sto spiegando. Sto dicendo che poi ci siamo noi, cioè che i cattivi siamo noi, signora, anche. Ora, io non sto dicendo, guardi, per capirci, siamo pochi intimi, io non sto dicendo che Matteo Renzi non ha colpa, sto dicendo che Matteo Renzi avrà la colpa, ma quei 17 medici e infermieri che hanno consentito che questa persona per 87 ore agonizzasse legato, allora, cioè, le responsabilità saranno anche nostre o no? No. Poi per finire con, non dico con una nota allegra, no, quello, non chiedetemi tanto, ma con una notarella curiosa, una volta nei giornali, quelli vecchi, si diceva notarelle e curiosità. Allora, sono contento che in questa riunione, quindi ringrazio voi due, abbia partecipato una persona che io posso aggiungere al, spero di non essere equivocato almeno per una frazione di secondo, ma capirà bene cosa sto dicendo. È stata presente una persona che io posso aggiungere al mio paesaggio umano, che io racconto quando mi capita di parlare di alcuni temi. E io dico, anzi adesso la faccio, così finiamo, dai, così finiamo. Allora, in molte situazioni, siccome l'ho scritto in un libro a lungo, me ne viene chiesto conto, quindi io torno sull'argomento e dico, ma scusate, davvero qualcuno può pensare che io voglia bene ai Rom? Ma è ovvio che io non voglio bene ai Rom. Scusate, la loro cultura, il loro stile di vita, i loro metodi, il loro comportamento, tutto ciò è all'opposto di ciò che io penso, provo, dico, faccio e così via. Allo stesso tempo io ritengo che in Italia sia in atto da anni una sorta di pogrom culturale contro i Rom. E spiego, guardate che c'è una famosa poesia attribuita a Bertolt Brecht, poi si è scoperto che non era di Brecht, che Brecht ne aveva solo elaborato una parte, che spiega come in una impressionante successione, quando viene colpito qualcuno e noi reagiamo dicendo vabbè, ma cosa c'entro io con lui, la successione delle vittime via via si avvicina a noi, capite? E questa poesia spiega bene ciò che è poi l'essenza di ciò che ho cercato di dirvi oggi, che si può tradurre con parole eleganti così: i diritti sono indivisibili, cioè se noi consentiamo che il gruppo sociale più odiato e più odioso, mi si consentirà di dire anche più odioso oltre più odiato, viene mortificato, represso, perseguitato, conculcato nei suoi diritti, noi stiamo consentendo che anche i nostri diritti, prima o poi, in un modo minore o maggiore, vengano conculcati. Cioè non esiste la possibilità nelle nostre società che un gruppo subisca una riduzione dei propri diritti senza che quella riduzione si riverberi su di noi. Detto questo, dico, io conosco tre persone, anzi dicevo due persone in Italia che vogliono bene ai Rom, un fotografo di Pavia, un architetto di Alghero, adesso conosco un eccellente signore di Bologna, quindi sono contento che cresca il numero delle persone che vogliono bene ai Rom, cioè che ne difendono i diritti elementari. Io direi di fermarci qui. Non so se c'è qualcosa, però direi di chiudere. Se siete d'accordo, no, è stata una bellissima serata. Penso che Luigi, intanto spero di averlo di nuovo tra di noi, e ci ha dato direi come l'ultima lezione. Abbiamo solo giovedì prossimo, vi invito comunque a essere presente alla testimonianza che ci sarà, ma è stata veramente un'occasione importante per una riflessione generale sul nostro corso sui diritti. Quindi lo ringrazio ancora una volta e credo che la lezione che abbiamo sentito stasera sarà per noi veramente un momento di riflessione. Il programma lo conoscete tutti, avremo quindi poi la fine nella tavola rotonda del 23, quindi le testimonianze il prossimo giovedì e il 23 la conclusione del corso. Grazie ancora Luigi della lezione. Grazie a voi, grazie a voi. Voglio venire qui questo tavolo, quindi chi vuole firmare può firmare.